Ci troviamo sicuramente in un momento storico diverso da quello del 2013, dove era stata appunto messa in campo quella delibera del Consiglio Comunale che dava avvio a questo piano di vendita anche del patrimonio comunale. Noi oggi diciamo nei prossimi anni abbiamo le risorse grazie al PNRR, al Superbonus, al fondo complementare per poter fare delle ristrutturazioni del nostro patrimonio comunale senza doverlo alienare, senza dover vendere i nostri cosiddetti gioielli di famiglia. La domanda sociale di casa è solo che è aumentata negli ultimi anni, quindi anche per questo un'inversione di tendenza importante con cui costituiamo anche un gruppo di lavoro per ragionare invece sull'investimento e sull'aumento dell'edilizia popolare e sociale nella nostra città. Per quanto riguarda i numeri, di quanti unità immobiliari si tratta? Dal 2013 ad oggi erano state circa 300 unità, 240-250 ad uso abitativo, il resto sono autorimesse, magazzini, unità di questo tipo. Ne rimanevano circa 100, di cui appunto 70 ad uso abitativo, quindi abbiamo messo uno stop su queste 100 e ragioniamo ora invece di incrementare il nostro patrimonio. Una riflessione che avete detto, dettata naturalmente dalle misure come quella del PNRR, quindi per affrontare l'emergenza, ma anche sulla situazione geopolitica che stiamo vivendo. Sì, chiaramente la situazione geopolitica ci consegna uno scenario in cui c'è un tema di caro bollette che preoccupa soprattutto la fascia più debole della nostra popolazione, quindi anche quella che vive nelle case popolari. Molto spesso le bollette per loro sono un costo maggiore rispetto al canone, quindi comunque riflettiamo su un mercato che non si tiene sostanzialmente in equilibrio da solo, quello della casa popolare. Qua rivolgiamo anche chiaramente una domanda al governo, ne abbiamo parlato anche spesso, la richiesta di istituire un ministero per la casa. La casa è un diritto fondamentale per tutte e tutti, da lì si dipana anche il godimento di molti diritti e quindi c'è bisogno di un investimento sempre maggiore del pubblico per calmierare il mercato e per aumentare l'offerta di case popolari. L'obiettivo, avete detto, è quello di tornare in 3-4 anni ad una situazione di normalità anche per quanto riguarda la manutenzione ordinaria di questi alloggi. Sì, questo sicuramente ci dovrebbe essere possibile grazie agli investimenti che stiamo facendo, ai piani che abbiamo candidato con il PNRR, col fondo complementare, tutto il bando del Superbonus che chiaramente ci darà la possibilità di fare degli investimenti molto importanti e dobbiamo ricordarci però anche l'altro piano di lavoro, cioè quello dell'Agenzia Sociale per la Casa, con cui andremo invece a calmierare proprio il mercato degli affitti. C'è anche tutto il lavoro che stanno facendo le parti sociali sul rinnovo dell'accordo metropolitano sul canone concordato, quindi speriamo che con queste varie misure che si intrecciano tra loro si dia uno scenario generale di respiro sul diritto alla casa.